Tutti lamenti, ma chi ti lamenti? Picca lo bastone e tira fuori i denti. Tutti lamenti, ma chi ti lamenti? Picca lo bastone e tira fuori i denti. Tutti lamenti, ma chi ti lamenti? Picca lo bastone e tira fuori i denti. Tutti lamenti, ma chi ti lamenti? Picca lo bastone e tira fuori i denti. Tutti lamenti, ma chi ti lamenti? Picca lo bastone e tira fuori i denti. Tutti lamenti, ma chi ti lamenti? Picca lo bastone e tira fuori i denti. Tutti lamenti, ma chi ti lamenti? Picca lo bastone e tira fuori i denti. Tutti lamenti, ma chi ti lamenti? Picchia lo bastone e tira fuori i denti. Non si può stare tranquilli. In questo paese non si può stare tranquilli. Perché non riesce a sapere mai la verità su niente. Ma parlo anche di cose eclatanti, di quelle che riguardano l'intera nazione, anzi, soprattutto su quelle, gravano sempre delle ombre. Neanche su una canzone come Mala razza, quella che abbiamo appena ascoltato, si può stare tranquilli. Anche sul testo di un successo della voce più rappresentativa della musica leggera italiana nel mondo, Domenico Modugno, gravano delle ombre. In realtà il testo cantato da Modugno trattasi di una versione censurata di un lamento in dialetto siciliano del poeta Virco. È stata censurata perché la sua versione originale faceva... ve la traduco. Tempo fa un servo di questa piazza, cioè di questa città, pregava Cristo con queste parole: Signore, Signore, vengo maltrattato dal mio padrone. Mi tratta come un cane bastardo. È talmente ingordo che si sente padrone di tutto, anche della mia vita. E se io protesto, lui minaccia di farmi arrestare. Signore, ti prego, togli il potere a questa mala razza. Ti prego, fai tu giustizia per me. Io non ne ho la forza, non ne ho il coraggio. Cristo se lo guarda e gli risponde: ma tu non hai le braccia inchiodate ad una croce come me, che vuole giustizia. Non può sperare che ci sia qualcun altro che combatta per lui. Io non sarei su questa croce se avessi combattuto. Tu ti lamenti? Ma che te lamenti? Peglia un bastone e tira fuori i denti. Ve l'ho detto, non si può mai stare tranquilli. Censure, poteri occulti, ombre. Ma quale paese do sole? Noi siamo paese all'ombra do sole. E quindi alleggerei subito la giornata, perché il nostro cervello non ce la fa più. E a fine giornata si deve rilassare, deve essere massaggiato, coccolato, viziato, deve essere intrattenuto, distratto dalle fatiche quotidiane. A quest'ora deve essere adagiato su di un soffice letto e dolcemente addormentato. Allora, avete sbagliato spettacolo, perché io voglio ragionare con voi. Mi serve un pubblico attento, sveglio, curioso, perché signori, stasera si parla di politica. Io i cortei me li sparo tutti, mi faccio tutte le manifestazioni, quelle per la casa, quella contro la camorra, quella specifica per la terra dei fuochi, quella contro il cambio dell'articolo 138 della Costituzione. Rodota, il vaffadei. Quella dei notav, quella dei tassisti, quella dei forconi, quella per i diritti degli omosessuali. Ma ve dico tutte! E poi partecipo ai congressi di tutti, perché io amo la politica. è in televisione un periodo meraviglioso. Nemico pubblico con Santoro, Travaglio, Vauro. Ballarò con Floris e Crozza. Piazza Pulita con Formilli. La Gabbia col chitarrista Gianluigi Paragone. Agorà con Gerardo Greco. Otto e mezzo con la Gruber. Omnibus con Alessandra Sordoni. Report con la Gabbanelli. E poi gli Evergreen. Porta a Porta e Matrix. Io non esco de casa. Io me drogo de politica. E vorrei conoscerli tutti, i parlamentari. E invece quelli che vanno sui mezzi di comunicazione che contano saranno 30, 40, al massimo, se sei un tossico come me, puoi conoscerne una cinquantina, tiè. Ma gli altri 900 seduti nelle camere, chi so, chi li conosce, che pensano, cosa fanno? Se poi ci aggiungi i parlamenti delle 5 regioni a statuto speciale, tutti i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, i delegati, i consulenti, i collaboratori, ti trovi di fronte a un esercito de teste de cuoio al servizio dell'Italia. E questa cosa mi commuove, come mi emoziona anche vedere le moltitudini riunite insieme per una stessa causa. Perché io ci parlo con le moltitudini, ci interagisco, ci discuto, ci ragiono. Perché quando ti percepiscono come uno di loro, ti aprono il cuore. Quante volte ho chiesto a un militante di Forza Italia 2? Ma secondo te non è che se stiamo a sbagliare? Berlusconi c'ha tutte ste condanne, tutti sti processi. Ma perché? Tu non sei convinto che è tutta una montatura della sinistra giustizialista? Sì, certo, ma tu come lo sai che è tutta una montatura? Hai seguito i processi? Ci hai ragionato? Lo conosci di persona? Cioè, come fai a esserne convinto? Uè, per me è così e basta. È che stiamo in chiesa che per certe cose è così e basta. Quelli, i comunisti, ti pigliano per il cu. Ma questo già ce lo sapevo. Ma come facciamo a capire che pure questi non ci prendono per il culo? A questo punto si chiudono e cambiano atteggiamento, come a dire: senti, ste domande non se le siamo mai fatte e non se le volemo fa. Il PD è il partito delle tante anime, una sorta di Verano della politica, e quindi non sai mai a quale anima ti sei seduto accanto. È un renziano? Un dalemiano? Un cuperliano? Un cibatiano? Un epifaniano? Un bindiano? Un lettiano? Un nostalgico comunista? Un giovane turco? Un anziano greco? Insomma, resto sul generico. Ma secondo te non è che se stiamo a sbagliare, Scusa? Che vorresti dire? Io non mi fido di questi dirigenti. Ah, su questo hai ragione. Ma a te, sinceramente, ti piace questo grrr? Non sono mai arrivato a dire illo. Perché lo odiano? Meglio Mussolini che Grillo. C'hanno l'occhi de fuori, de fanno paura. Tanto che gli dico subito che fa schifo pure a me, così se carmeno. Ma so pesanti. Perché come il non pensiero berlusconiano è il faro politico di Forza Italia, così il pensiero del quotidiano La Repubblica è il sacro graal della sinistra italiana. Pesante. Quando me voglio sfogare me butto da Grillo. Là c'è sempre qualcuno da mannà, affanculo. Non faccio riferimento agli altri partiti perché ancora non mi hanno pagato per farlo. Aspetto sovvenzioni. Parlando seriamente, dopo anni e anni di frequentazione di militanti politici di ogni estrazione, t'accorgi che la maturità media della coscienza civica degli italiani è pari a quella di un dodicenne. I partiti sono delle squadre per cui tifare. E con il curvo distacco degli ultra analizzano l'intera società. E anche il concetto diffuso di antimafia è a livello cerebrale di un bambino. Io sono contro la mafia perché la mafia è cattiva. Io sono buono e quindi sono antimafia. Ma devi crescere come cittadino. Cioè, non puoi più pensare che la criminalità sia la storia di mostri assetati di sangue e di denaro. I criminali stanno in mezzo a noi. Nel posto accanto, scherzavo, cioè nel senso che le loro vite non è che si svolgono frequentando esclusivamente i mafiosi, ma si svolgono frequentando persone come noi. Quindi non è esagerato affermare che i criminali non sono mostri, ma sono parte integrante della nostra società. Se un francese, un inglese, un tedesco, uno spagnolo, non è una barzelletta, è una cosa seria. Cioè, se uno di loro, dicevo, studia la storia del proprio paese, non ha necessità di conoscere la storia della criminalità, perché i criminali non sono mai protagonisti di eventi storici di quella nazione. Per un italiano, modestamente, è indispensabile addenciarvi. Perché se ci raccontiamo la storia della mafia come la mafia come la storia di una bassa macelleria criminale intessuta solo di racket, estorsioni e traffico di stupefacenti, non comprendiamo che la storia della mafia è la storia di una parte importante del potere costituito. Cioè delle attuali istituzioni. Almeno questa è la situazione che si è venuta a creare dallo sbarco degli americani nel 1943 in Sicilia fino a quest'istante. A molti cittadini però sfugge il rapporto diretto tra la propria piccola vita quotidiana e la politica. A me non sfugge e me lo godo tutto, sì. L'altro giorno ho trovato una foto di mio padre da giovane in costume da bagno. Mazza quant'era bello! Magro, atletico, capelluto. Era appoggiato a uno di quei barconi che facevano da lido. E nonostante avesse i capelli completamente bagnati, aveva una chioma foltissima. E quelle gocce, cristallizzate in primo piano, erano il Tevere. L'acqua del Tevere. Ed ecco la politica! Cioè, io non ho mai fatto il bagno nel Tevere. E non potrò farlo. Ecco la politica. Scusate, ma quando parlo di politica devo sempre mangiare qualcosa. E in Italia siamo in tanti. Siamo così tanti che si può parlare di una vera e propria classe digerente al potere. Questo è il paese dove ogni fattaccio brutto accade per colpa di singole mele marce che avvelenano invece un intero albero che è sano, onesto, democratico. E quindi, che ne so, il massacro della Diaz è avvenuto per questione di sfiga. 500 poliziotti marci, tutti casualmente riuniti insieme a Genova. E sarà questione di sfiga per cui ogni 20 minuti viene commesso un reato all'interno delle nostre amministrazioni pubbliche. Cioè, a nessuno viene in mente che in Italia la corruzione non è una deviazione del potere, ma è la forma naturale dell'esercizio del potere. È come quegli adolescenti che subiscono in silenzio lo stupro quotidiano in famiglia o in qualche sagrestia, così la nostra silente rassegnazione di cittadini nutre la corruzione di questo Stato. Ed è per questo che anche quando viene accertato un reato di un uomo delle istituzioni, dall'alto della loro posizione sociale rispondono infastiditi, scocciati: uè, la casa me l'hanno regalata, ma non so chi è stato. Non è stupidità, è alta comunicazione sociale. Ti stanno spiegando, in altre parole, sono così potente che posso dire pure queste minchiate. E poi mi ricandido nello stesso partito. E poi sarò di nuovo eletto. E poi sarò anche assolto. E quindi me ne fotto. Questa è finezza politica. Thank you. Siamo un popolo ipnotizzato dalla TV. Milioni di occhi e di orecchie concentrati a seguire chiappe sculettanti, rutti del Grande Fratello, eventi sportivi, notiziari, talent show, dibattiti, film, fiction, spot. Siamo intrappolati in un rapporto simbiotico col televisore che neanche ci accorgiamo che ci stanno a fregare il divano da sotto il culo. Siamo talmente affascinati dallo schermo che molti ormai esercitano la loro partecipazione politica attraverso Facebook e Twitter. Stanno a casa, non si muovono, schiacciano due tasti per scrivere: quando un governo non fa quello che vuole il popolo, va cacciato via con le mazze e con le pietre, e poi vanno su YouPorn e si rilassano. E questo è il problema, il rilassamento. Se scrivi quelle cose, dopo non puoi andare su YouPorn, devi uscire da casa. Fermo, dove vai? Quei tempi sono finiti. Ma che ce fai che mazze, che pietre, che pistole? Oggi, nei paesi democratici, le battaglie si combattono con le informazioni. Snowden, Edward Snowden, quello del Datagate, ve lo ricordate? Ecco, lui è il guerriero del mondo contemporaneo, l'uomo dei servizi segreti americani che svela i segreti dei servizi del suo paese, l'uomo che tradisce perché riconosce i governanti americani come traditori dell'intero popolo. Insomma, Snowden incarna il vero eroe romantico, lui contro tutti. Ma non è bello e maledetto, no! Una faccia pulita, magro, con gli occhiali, insomma, è uno tranquillo. E ti svela cose che te fanno scantare. Tipo che la CIA infila un banchiere svizzero ubriaco in una macchina e gli dice di guidare. Poi la CIA avvisa subito la polizia svizzera e segnala il banchiere. Così la polizia svizzera lo ferma e lo arresta. Ma a questo punto rinterviene la CIA, che non fa arrestare il banchiere, così lo ricatta e lo recluta per una questione di una legge sul sistema bancario svizzero. Mamma mia, questa CIA. La CIA ovviamente nega tutto e allora Snowden comincia a pubblicare una marea di documenti dove dimostra che tutto quello che dice è vero. Supigliano o snodano. Ma la cosa bella è che il popolo americano non ha capito niente. Pensano di essere spettatori di un Colossal in 4D. Se lo godono in poltrona, con gli occhiali, con i popcorn. Aspettano che arrivi Superman per fare giustizia sul pianeta Terra. Non sono sfiorati dal dubbio che tutto quello li riguarda personalmente, uno per uno. Un altro guerriero del mondo contemporaneo è Assange, Julian Assange, con il suo WikiLeaks. Ve lo ricordate Assange? Eh? Bello, biondo, con i capelli lunghi, un Beethoven politico. Un altro che tramite il suo sito WikiLeaks, appunto, pubblica una marea di documenti segreti degli Stati Uniti dove dimostra quanti crimini democratici commettono quotidianamente gli americani. L'impeccabile democrazia americana prevede uccisione democratica di civili, occultamento democratico di cadaveri, esecuzioni democratiche senza processo, violazione democratica di tutte le leggi diplomatiche e di privacy, corruzione democratica. Io ho paura di questa democrazia. Ho paura di questo regime democratico. Ho paura della ferocia dei nuovi strumenti del potere. Ho paura della civiltà, dell'immagine e del mercato, perché l'unico valore condiviso da tutti è il denaro. Il denaro giustifica tutto. Ho paura di questa democrazia che sacrifica sull'altare del potere la propria umanità. Ho paura di questo sistema dei consumi che pensa per te, che sogna per te. Ho paura perché non manca la libertà, ma uomini liberi, perché spesso è più duro lottare non contro la violenza dei padroni, ma contro la condiscendenza a essere servi. Io di questo ho paura. Comunque non è un caso che Assange è figlio di due attori teatrali. Non è un caso, perché noi teatranti viviamo tra le scenografie e quindi sappiamo riconoscerle prima degli altri, è naturale. Vi siete accorti che le nostre esistenze sono immerse nelle scenografie, vero? Scenografie di democrazie, di religioni, di matrimoni, di valori, di idee. E spesso non riconosciamo la differenza tra una semplice scenografia e la realtà concreta, perché il cervello umano è naturalmente strutturato per dare una realtà concreta anche a una semplice scenografia. È un processo che elaboriamo automaticamente ogni giorno, non ce ne accorgiamo. Per questo siamo attratti dal cinema, dalla fotografia, dalla pittura, dalla televisione. Cioè, dall'immagine piatta che mi appare, elaboro una realtà tridimensionale che spesso non esiste. Per questo oggi l'apparire è tutto. No? E no. Dobbiamo uscire fuori da questa dimensione PlayStation. E tuffarci con coraggio nel mondo, nella vita reale. Dobbiamo uscire fuori da questa pigrizia cerebrale che non ci fa capire se dobbiamo schierarci e in caso con chi. Dobbiamo uscire fuori da questa follia che non ci fa comprendere la gravità o la leggerezza di molti avvenimenti sociali, politici, culturali. Se non sappiamo prendere una posizione chiara e precisa su avvenimenti di carattere planetario come quello di Snowden o di Assange, vuol dire che non stiamo capendo il mondo che ci circonda e non ce lo possiamo più permettere. Cioè, secondo voi è esagerato affermare che se oggi rinascesse Gesù sarebbe perseguitato e crocifisso di nuovo? Eh? Ma oggi non lo crocifiggerebbero mai di giorno in bella vista sul Monte Golgota. No! Oggi ci sarebbe tutta un'altra location. Oggi tutto si svolgerebbe di notte. Nessuno sa chi è stato. Shhh. E allora serve un'inchiesta. Si apre un'indagine per chiarire il caso. Un anno di indagini, di lavoro serio, intenso, accurato, democratico. Se Gesù venisse crocifisso oggi, questa sarebbe la perizia democratica della Repubblica Italiana. Smentendo le faziose notizie evangeliche, lo giovane arrestato di nome Gesù, figlio di Giuseppe e figlio di Maria, è morto perché teneva le mani bucate e i piedi pure. Considerato che Gesù faceva l'ufalegname, maneggiando i chiodi spesso, si procurava degli incidenti in goppo lavoro. 1, 2 e 3. La ferita al petto non è causata da lance in dotazione alla polizia come voci populiste insinuano, ma da tentativo di suicidio. Stu Gesù, dopo il fallito suicidio, è scientificamente deceduto perché ostinatamente aveva smesso di respirare malgrado l'ambiente ben ventilato in nome del popolo italiano. E oggi saremmo tutti costretti a credere a una sentenza del genere. E anche Giuseppe e la Madonna sarebbero obbligati a credere a una sentenza come questa. O al massimo a nutrire dubbi entro limiti democratici. Protestate? Non vi fidate? Volete il processo? e facciamo il processo. Ma tanto in Italia, nei processi importanti, in quelli che contano, le prove spariscono. Pure i chiodi farebbero sparire. In un certo senso, se in Italia ti processano con tutte le prove, tutti i testimoni, vuol dire che socialmente non conti niente. In un certo senso, meno male che Gesù l'hanno ammazzato allora. Almeno sappiamo com'è andata. Se l'avessero ucciso oggi, sarebbe un altro suicidio misterioso, un altro segreto di Stato. Perché questo è uno Stato, che ci sono persone che per suicidarsi mica hanno aperto la finestra e si sono buttati di sotto, no! Tra i tanti suicidi strani c'è per esempio il caso di un banchiere di 64 anni che per suicidarsi è uscito di casa, è andato all'aeroporto, all'aeroporto ha preso un treno per Londra, a Londra si è recato sul Tamigi ha scelto il Ponte dei Frati Neri, sul Ponte dei Frati Neri, anzi sotto il Ponte dei Frati Neri si è tagliato i baffi, si è messo alcuni mattoni nelle tasche, poi un cappio al collo e così conciato si è arrampicato sul pilone del ponte e una volta arrivato in cima al pilone del ponte ha camminato in bilico per 9 metri sul cornicione di codesto ponte e dopo 9 metri non si è buttato, si è fermato e mentre era in bilico ha legato l'estremità della corda del cappio a uno spuntone del ponte e con un nodo alla marinara di difficile esecuzione soprattutto per un banchiere di 64 anni e poi alla fine si è impiccato. Dire che è un suicidio estroso non rende l'idea. Direi quasi che è un suicidio incredibile. E infatti è una perizia falsa della polizia inglese. Però, per anni, Scotland Yard ha preteso che il mondo credesse che il banchiere italiano Roberto Calvi, dopo 40 anni di scrivanie, fosse morto come un acrobata del Cirque du Soleil. E l'Italia è stata la prima a crederci. Non vedeva l'ora di potersi vantare di una così grande creatività nel campo di suicidi. Ci sono voluti anni, fortuna e abilità prima che il giudice Almerichi potesse dimostrare che Calvi è stato banalmente impiccato da qualcun altro. Ma episodi gravi del genere accadono tutti i giorni sul nostro pianeta. Ma non succede niente. Gli abitanti non reagiscono. Sì, oddio, qualche manifestazione. Qualche protesta entro limiti democratici. Oddio, qualcuna anche al limite della democrazia. Non so se da parte della polizia o della popolazione, ma comunque niente di più. E in fin dei conti, vi capisco. In fin dei conti si tratta di persone e fatti lontani dalle nostre vite, certo, cioè in fin dei conti, ma che ce frega, in fin dei conti che ce frega se hanno ucciso Stefano Cucchi oppure no, che ce frega chi e come hanno rapito Emanuele Orlandi, che ce frega se Bruno Contrada, il capo dei servizi segreti italiani, avvertiva Rina e Provenzano dei blitz dei carabinieri. Ma che ce frega se all'età di 87 anni Giorgio Napolitano ha rinnegato il comunismo? Cioè, è come se Papa Francesco tra 15 anni rinnegasse il cattolicesimo. So cose che fanno ride. Come le vittime dell'Ilva hanno fatto ridere Nichi Vendola e quelle dell'Aquila hanno fatto ridere il costruttore Piscicelli e il prefetto Jurato. Ma che ce frega se l'Aquila la ricostruiscono oppure no? Noi siamo da Roma! Ma che ce frega delle privatizzazioni? Tanto non capiamo niente! Ma che ce frega se a causa dell'accordo tra Berlusconi e Putin paghiamo il gas il triplo di quello che dovremmo pagarlo? E no, questo de solito ce frega. Perché ormai abbiamo sviluppato il cervello bolletta, un cervello che non riesce più a decifrare avvenimenti importanti e gravi, ma che non sopporta gli aumenti della bolletta. Su questo punto il cervello bolletta è intransigente. Bene, adesso mi rivolgo a tutti gli ascoltatori da Cervello Bolletta. Se vogliamo abbassare il costo della bolletta, dobbiamo affrontare tutte queste questioni insieme, perché questa è la vera questione, e non importa il livello culturale, intellettivo, l'età o l'estrazione sociale. Se dovemo dare una svegliata a tutti come cittadini, dico, non c'è più tempo da aspettare nessuno. È diventata una questione di sopravvivenza per il popolo e per la borghesia. Dobbiamo sviluppare una coscienza civica ed esercitare un'attività politica, porca miseria, e in fretta. Ma quante perizie, quante sentenze come quelle di prima su Gesù o su Calvi sono state emesse con la stessa disonestà giuridica? Ne sono state emesse talmente tante che ormai possiamo vantare una vera e propria tradizione nostrana, con tanto di certificato DOP, come la pizza, la pasta, la mozzarella con la pomarola in coppa. Una tradizione fatta di processi truccati, magistrati corrotti, sentenze pilotate, servizi segreti deviati, massoneria deviata, ombre deviate, ombre. Ormai le nostre ombre hanno soppiantato quelle cinesi. È l'unico campo in cui siamo rimasti ancora competitivi. Cioè, questo è un periodo storico in cui lo stesso camorrista Carmine Schiavone è rimasto sorpreso, spiazzato dal livello criminale dei politici. A un certo punto anche Schiavone si è fermato a ragionare sul pericolo dello sversamento dei rifiuti tossici ed è stato colto in contropiede. Non aveva capito che aveva a che fare con politici, industriali e massoni più criminali di lui, e infatti l'hanno fatto arrestare per continuare a sversare in santa pace. Per 20 anni Stato, Regione, Provincia e Comuni prima sono stati in silenzio, ma poi hanno cominciato a parlare, ma non per dire fermi, aiuto, pericolo, no, garantendo la salubrità del territorio e smentendo le irresponsabili voci populiste che gettano lo discredito in goppa istituzioni. Viva l'Italia e viva la Repubblica! E mentre rassicuravano, continuavano a sversare ogni santo giorno, compresa la domenica, dopo la messa delle 10. Amen. Ombre. No, non ce ne sono ombre. Tutto è avvenuto sunlight, alla luce del sole. E si conoscono i nomi di tutti, ma non succede niente. E non succede niente perché, come ci spiega lo scrittore e giornalista venezuelano Naim, fino a pochi anni fa le mafie avevano molta influenza su alcuni personaggi all'interno dei governi. Oggi sono i governi stessi a essere a capo di reti illegali internazionali. Vi ho detto tutto questo perché comprendiate che non è un atto sconsiderato quello che adesso mi accingo a fare. Un appello d'aiuto le famiglie criminali più importanti d'Italia.